10 Allora, eccoci Alessio, siamo finalmente tornati in onda. Sì, siamo sì, prontissimi. Più forti di prima. Oggi è una puntata interessantissima, parleremo di Prete Donna, Elio Germano, che sappiamo che ha creato scompiglio. Soprattutto il prete donna. Soprattutto il prete, pretessa, preta, come volete dire. Parleremo di opere d'arte rovinate qua a Napoli. Napoli sarà al centro di alcuni discorsi. E dopo la pausa, tra l'altro, io sarà il momento Riccardo, come al solito, dove me la prendo con qualcuno. La settimana scorsa con Silvia Valerio, la puttana che voleva dare la verginità al governatore, cioè come possiamo dire, il capo di stato iraniano, e stavolta me la prendo con l'host e saprò che molti ce l'avranno con me sicuramente. Detta così sembra che facciamo il punto di Riccardo Cremona. No, però ogni tanto me la prendo con qualcuno, stavolta è più preparato, perché l'host m'ha rotto le palle questa settimana, e quindi oggi sono prontissimo a prendermela con l'host. Quindi salutiamo il nostro DJ. Ciao DJ, come stai? Buonasera. Un po' moscettino. Un po' moscettiello. E partiamo con la sigla. Mi sta stretto lo stivale, è una vita, niente male. Io vivo in una casa in miniatura con la mia compagna e le formiche. Noi ci incontriamo quando viene sera e dividiamo le molliche. Ma se ci venisse in mente un giorno, che ne so, di fare un figlio. Un figlio, un figlio. Lui per la miseria che c'è in frigo si mangerebbe i Lego. Ma domani smetto, mollo tutto e vado in Brasile. Ti saluto, cara vecchia patria. Eccoci qua. La sigla di Dennis Bertolini per noi. Che salutiamo, il caso del destino ci ha fatto unire. Che piacere, così, sempre un piacere ascoltarlo. E niente, partiamo subito con una notizia, direi, innovativa. In ritardo. L'ossimoro è molto carino, però notizia innovativa. Sì. Parliamo di donna sacerdote, sacerdotessa, una pretessa. Dipende come volete fare, visto che un nuovo ruolo e i neologismi sono all'ordine del giorno. Preta, mi piace tantissimo. Sì, preta, parliamo di preta. Parliamo di una preta che si chiama Maria Vittoria Longhitano. Ah, che nome e cognome proprio. Eh sì, così Gesù Cristo viene ad ucciderci fino a ma casa. Ma dai, ma che guarda cosa? Che i preti sono protetti da personaggi alti. Appunto, forse le pretesse. Gesù, Dio, San Pietro. I santi. Perché hai detto solo San Pietro? Sono tantissimi. Scherza, coi fanti. Ma lascia scherza, stare i santi. Santi. Pericolosissimi. Santa Alessio. Quando è Santa Alessio? 17 luglio. Ah, sti cazzi. Sti cazzi. Va bene, allora, praticamente Maria Vittoria Longhitano ha celebrato la sua prima messa. Così. E sì, lei Corpo di Cristo. Amen. Corpo di Cristo. Amen. Basta. Benedirà e terrà le funzioni nella chiesa di Gesù di Nazareth a Milano. Oi, Gesù di Nazareth. Ti ho detto. Tra l'altro, la sua religione cattolica, cioè la sua è una branca, forse non si dice proprio branca, che si usa in termini scientifici, della religione cattolica. Una mozione. Sì, della religione cattolica, che si chiama veterocattolica. Che praticamente è un ramo della religione cattolica che non riconosce l'infallibilità del Papa. Ah, no, secondo me il Papa non ce la fa a fare centro. Ha detto una cazzata. No, secondo me il Papa non la fa a buca. Il Papa è infallibile. Il Papa ogni tanto qualche stronzatina la fa in tedesco, però è preciso, però ogni tanto. E i tedeschi sono così. Sono un po' così. Loro, i loro Brustel e i loro Krauti di merda. Kartoffeln, l'unica cosa che so dire in tedesco, che vuol dire patate. Scartoffie. No, patate. Però so dire pure Beckenbauer in tedesco. Tu sai dire? Anche però Michel Hunziker. So dire Alessio in tedesco. Come si dice? Alessio. Bravo. E Riccardo cazzo, come si dirà? Riccardo. Ah, ma allora quasi la stessa lingua. Perché quello. Sì. è, il è la radice che comunque è latina, sì, quindi sì, la stessa cosa. Ma più che o succede? Meno, allora... però, vabbè, non è proprio così, però vabbè. Maria... è il letterato che c'è. Andiamo. Allora, Maria Vittoria Longhitano, che è siciliana di nascita, era stata ordinata sacerdote qualche giorno fa dalla chiesa anglicana, non leggere, di All Saints. Sì. Che non sono... come il gruppo musicale, sì, mi piacevano tantissimo. Poi facevano una cover di Under the Bridge dei Red Hot Chili Peppers, che era la fine del mondo. Ecco, tu continui a ripetere. C'era questo video incredibile in cui erano in questo palazzo. Sì. E avevano un buco al centro della stanza. E loro stavano tutte sedute, poi toste in una maniera. Sì, vabbè, sì, dai. Cioè, il fatto che tu erano toste, però il fatto che tu avevi il CD delle All Saints richiama sempre quella cosa. Tra cultura musicale. Sì, cultura, come no? È cultura musicale. Andiamo a dirlo in giro. Lei è sposata, tra l'altro. Prete, pretessa, Maria Vittoria Longhitano. Eppure sposata. Questa fa tutto il cazzo che vuole, comunque. Sì. Tutti felici, lei ha detto che senza donne la cattolicità, che vuol dire universalità, viene mutilata. È chiaro. Quindi anche le donne vanno ricompresi. La cosa bellissima è che durante questa messa, la messa più strana del mondo, perché che succede? Succede che durante la cerimonia l'organo veniva suonato da Luana Ricci. Tu direi, chi è Luana Ricci? Una pornostar. No. Luana Ricci era Marco Della Gatta, un organista che aveva cambiato sesso e la chiesa l'aveva cacciato. E quindi ti rendi questa chiesa, che questa messa era Rocky Horror Picture Show. I tramboni, sì, che cantavano e inneggiavano a Gesù. Alleluia, alleluia, finalmente ci siamo aperti un po' a tutti. A me mi puzza un po' di mossa di marketing, però diciamo che siamo felici. Il famoso marketing della chiesa. Il famoso marketing della chiesa, che lo sappiamo tutti. Il marketing della chiesa. Sì. Andiamo avanti. Passiamo allora, notizia. La prossima notizia, Elio Germano. Che io seguo un po' da una vita. Sì, un bravo attore. Mi piace perché molto. Lo seguo da quel programma Via Zanardi 33. Sì, ma lo ricordo. Eravamo piccoli, anche però. Anche Daniele Silvestrin. Cioè. Veramente sì. Eccezionale. Ah. Ci dicono alla regia che non funziona il link dalla pagina di Radio 2010, quindi dovremmo controllare da quel computer là di Alessio. Però vabbè, possiamo parlare della cosa senza troppi sì, problemi. Sì, certo. Allora, grazie ad Alfredo per averci fatto grazie notare mille. Il problema. Stiamo risolvendo. Che è successo a Elio allora, Germano? Allora, Elio Germano ha vinto a Cannes. Sì. Al Festival dei Cannes, che molto c'è stato. Molto importante, sì. Quindi grande Elio è Germano. È il premio vero per gli attori, secondo sì, me. Perché anche perché l'Oscar è un po' una pagliacciata, sì, diciamo ma, così. A parte questo, il vero problema... Salutiamo Alessandra Clemente, che è entrata! Un saluto Alessandra Clemente. Siamo a 7! Sì, siamo evviva! Quasi una squadra di calcio! Evviva! Alleluia! Quasi una squadra di calciotto! Quasi, neanche. Neanche. Dimmi. Comunque... Elio Germano, che poi è probabilmente il vero futuro sì, italiano, che perché gli altri, insomma, dai, sono tutti quanti bellini, sono tutti quanti carini. Francesco Favino, prendi Scamarcio, Claudio Santa Maria, sì, ma pure Scamarcio, Stefano Accorsi, sono i bellini. E poi c'è quello là che parla così: ma che significa? Che significa? Ma che significa che mi lasci? Che significa? E lui, Gabriele Muccino, e lui invece, uh-huh. E lui invece è quello lì un po' più bruttino. Sì, è quello. È l'attore. Rachitico. Sì, è quello il meno belloccio. Diciamo che se uscissero tutti esatto. quanti insieme, sarebbe quello che va col cesso. Esatto. Uno va a prendere la bella, uno prende la bella, e lui va col cesso di turno. La sì. chiattona ubriaca. Un classico. E la cosa veramente importante è che lui uh-huh. ha tenuto fede a questo suo ruolo di perenne outsider, sì. dicendo una cosa abbastanza... Lui è un outsider molto forte, sì. l'ho visto anche al primo maggio, abbastanza, uno che abbastanza, non le manda a dire. Abbastanza importante, cioè ha dedicato il premio agli italiani... Sì, lo ringraziamo. ...che sono meglio, secondo lui, della loro classe dirigente. Ha lanciato questa frecciatina, esatto, piccolina, esatto. perché poi a Cannes non c'è pubblicità. Poi tutta la questione di Bondi, che sono impazziti. La cultura, Alemanno, sono eccetera, impazziti. Eccetera, è successo un po' un macello. Sono impazziti proprio perché... Quindi noi lo ringraziamo perché è stato bravo. Bravissimo. Speriamo che è stato premiato cosa... da Javier Bardem lì. Sì, sì. Tra l'altro sì. un altro belloccio. Arriva lui rachitico proprio. Scusi, gli dà Bardem un po' che probabilmente non se ne fotte un cazzo di chi nulla. È. No, non sa neanche chi è. Esatto. Gli stava dando gli spicci perché pensava fosse il ragazzo del parcheggio sì, a Cannes. Sì. Poi però gli hanno detto, guarda, è un attore come te. Lui ha fatto... e se n'è andato. Alessandra Clemente ama Bardem. Ama Bardem, ma quale Ah no, ama Elio. Ama Vabbè, Elio. Ma comunque sono tutti e due bravissimi Alessa, attori. Alessà, Elio e Bardem assieme... È pure una bella accoppiata, Uno ti parla spagnolo, che ne pensi? Uno romano. No, solo dice uno. No, lei solo, è una che non fa menaggio. Solo, è monogama. Va bene così. Però fa curriculum. No, Bardem. Ah, Bardem, va bene. Vabbè. E comunque esagerata. Bene, gustibus non disputandus est, così, non proprio così, però io l'inglese, il latino non lo parlo benissimo. Iskra ci dice che il germano è stato anche censurato. È stato censurato il giorno dopo sulla Rai. Però sulla YouTube, però, se voi andate, c'è sempre. Però il giornalista è stato abbastanza bravo e deciso. Sì, molto bello, è vero. Il giornalista ha riferito le parole di quello che aveva detto il germano, cioè non ha accettato la censura, però giusto così, e l'ha detto. Esatto, salutiamo il germano, ci vogliono anche le palle per fare una cosa del genere, anche la Barbarossa come me, quindi è molto simpatico, siamo pochi. Vabbè, anche io so recitare. Tu non sei un grande attore. No, che ne sai? Soprattutto non hai fatto Via Zanardi 33. Ricordiamo che in Via Zanardi 33 chi c'era? Io sono solo Daniele Silvestrini. Uno dei più grandi cantanti italiani, Cesare Cremonini. No, c'era Cesare Cremonini. Molti di voi forse saranno piccoli e soprattutto non guardavano la televisione quando c'era Via Zanardi 33. Io invece entravo definitivamente nell'adolescenza, e a 14 anni, e mi piaceva un casino. Sì, c'era Cesare Cremonini, ricordiamo, ex Luna Pop. Ha fatto un CD molto bello, un sacco di singoli, poi sono morti tutti, tranne quello là che suona il basso, è finito. Gli altri che sia morto anche lui, pure lui? Non sia proprio lui. Diciamo. Non sia lui, sai, come la storia dei Beatles. Un po' come McCartney, tra l'altro, lui mi sa che si chiamava Ballo. Te lo giuro, il bassista si chiamava tipo Ballo. Sì, lo chiamavano. Ballo, infatti dicono che idolo. Vabbè, lo chiamava, non credo che si chiamasse Ballo qualcosa. No, è un soprannome. Bel soprannome, complimenti. Uno pieno di dread. Drogatissimo. Passiamo da Parigi, da Cannes, e andiamo a Parigi. Città che io odio. A Parigi, veramente. A Parigi io odio i francesi. Mi stanno un po' qui, non lo so, mi sono antipatici. No, non lo so. Che succede? A Parigi sono dei geni, no? Ci sono poco decisi quando parlano. Sì, no? Mi sembrano un po'... Sì, sembra che dicono stronzate. Un po' smortini. Sì, Alessandra Clemente non sarà per nulla contenta perché lei è molto parisienne. Ma i francesi mi stanno un po' sulle palle. Poi si dice che non si lavino, sai questa storia? Che non si lavano per il bidet. Certo, non hanno i bidet, molto bravi. Come fanno? Non lo so. Buttiamo la cosa sul qualunque. No. Salutiamo i nostri amici francesi. Solo dalla regia, funziona il link adesso? Ok, funziona il link, quindi se spammate ci date una mano. Tra l'altro ci ascoltano dalla Francia, quindi noi salutiamoli perché tutta la Francia ci ascolta. Tutta. Riccardo, Alessio, tutti quanti. Mamma mia. Mi sta stretto lo stivalet. Lo stivalet, molto carino. Che è successo? Un maxi furto di opere d'arte a Parigi. Sì, è stato bello. Bellissimo, un bel colpo di 500 milioni di euro. Sono stati rubati 5 capolavori di Brecht, Lager, Matisse, Modigliani e Picasso. Gentarella così. Scribacchini, artisti. Ma la cosa bella, sai cos'è? Che hanno ripreso questo ladro. Bozzisti. Questo ladro entra, rompe un vetro da una finestra, rompe un catenaccio, entra con un taglierino, manco fosse un operaio. Taglia con calma queste bellissime opere, se le mette in tasca e se ne va. Sì. Oh là là, come mai? E perché siete dei cretini? Siete dei cretini perché erano 2 mesi che non funzionava l'allarme e l'avevano anche avvisato e nessuno l'ha aggiustato. Le voci girano, un ladro ha fatto, non funziona l'allarme. E io vado a rubarmi ben 5 opere d'arte inestimabili. Tra l'altro io ho visto da Gambetti. Ma ti dico io, no? Non so che dire. Sono mangiaranocchie. State attenti a questo. Cioè, ma se mi rubano la Gioconda, perché allora, se invece di fare queste zuppone di lumache enormi, che poi vi cibate con le mani, che poi vi fanno venire una botta di pancia, perché loro mangiano, quello, non avete il bidet. Mangiano neanche tutto quello dello stagno, bruttissimo. State attenti. E pensate ai vostri musei. Ma anche le opere d'arte sono mondiali. Tra l'altro, sai che una volta. A parte che avete una quantità di cose nostre che dovremmo picchiarvi tutti. Io preferisco darle a loro certe cose. Cioè, secondo me è più sicuro nel Louvre. Che viene qua. Bondi che entra in un museo e quasi che carino, e sputa su un quadro. Lo brucia come oppure Calderoli lo brucia, che lui è fissato. E magari. Questa non era italiana, lo brucia. Sì. Tra l'altro, io ho sentito una trasmissione televisiva che dicevano che queste opere non hanno mercato. No. Quindi si fa. E tu napoletano lo sai bene, il cosiddetto cavallo di ritorno. È chiaro, certamente. Non sono valutati. Loro rubano e poi dicono: vedi voi questi bellissimi scarabocchi? Paga. Questa è una bella mossa, anche perché dove te li metti? Nel salone non stanno bene, un Picasso schifezza, nel salone. È una schifezza, state attenti ai vostri perché quadri. Perché se non è illuminato bene, state il Picasso perde un po', perde un po'. Bravi francesi. Va bene che avete la storia, va bene che avete fatto la rivoluzione, però dai. Ma fatela finita, la rivoluzione francese è una stronzata. Eh sì. Tocca a me. Da francesi passiamo a... quella che è stata latinoamericana, che è stata definita Miss Droga. Come potete ben vedere, in ogni puntata si parla sempre un po' di droga. Sì, è perché il mondo è drogato. Perché il mondo va in droga. Quella direzione. Sì, sì. Allora, lei è una colombiana di 31 anni, la che protagonista dedo. Di questo si chiama pure carina. Angie. Non penso si dica Angie. Vabbè, io ne leggiamo così. Comunque San Clemente, Alessandra Clemente. Valencia. Pure gli spagnoli, vabbè. Gli spagnoli stanno un po' più simpatici. Sì, però sono i nostri pezzotti. Si vede. Loro probabilmente dicono la stessa cosa. Lo so, vabbè. Italia, Spagna, una rasa, una fasa. Alessio Strazzullo e un altro Riccardo Cremona. Uguale. Che stanno facendo una puntata Prado 20 IDS. Dicendo che gli italiani. Sei un cretino. 20 IDS. Comunque, la colombiana in questione, vi invito ad andare a vedere le foto. Anche lei è una preta. È abbastanza. Lei è una preta, come la prima notizia che abbiamo dato. È decisa, è ecumenica, importante. Sì, ha due belle cupole. Sì, no, è molto, è molto bella, è molto carina. Comunque, dalle passerelle, perché è una miss, una modella. Sì, una miss. Dopo, diciamo, 5 anni di latitanza, sì, in cui comunque era, diciamo, ricercata. Forse questa faceva qualcosa, non la trovavano. Questa spacciava clamorosamente. Spacciava, cioè, di brutto. Non come qua, i 5 euro. Praticamente aveva una gang. Una gang, lei? Sì, proprio una gang. Che operava in tutto il Sud America. Voglio sposare questa donna. Sì. Bella e dannata. Giustamente. Il Corriere della Sera dice che Angie, nel corso del tempo, fisico da favola, colombiana di 31 anni, si è trasformata da Miss Caffè in capo di una banda di narcos. Brava, bella carriera. Bella carriera. Complimenti. Ed era da metà dicembre che provavano a sai che si bloccarla. Dice uno deve fare la gavetta. Lei l'ha fatta. E l'ha fatta parecchio. Prima la pippava, adesso la vende. Perché si sa che un po' le modelle un po' ci danno. Le i ritmi, poi magre. Un po' pippano, un po' vomitano. Sì, hanno una vita di merda. Che vita di merda. A 30 anni sono morte tutte. Tutte proprio. Muoiono. Quelle tutte. Che vedete così, in verità sono finte. Appassiscono. Sì, appassiscono come nulla. Salutiamo Miss Droga, che ormai hanno preso, quindi dalla cella stava ascoltando questa bellissima radio. Giulio dice che sentire noi è come leggere la barra sulla destra della Repubblica. Posso? Sì, posso. Prego. Giulio, santi Dio, questo è un programma di, che ne so, di attualità, quindi non è che adesso possiamo leggere il Topolino, il Cioè, è normale che ci andiamo a fornire. Per quanto alcune notizie io le prendo esperienza. Anche da lì, è normale. Poi Alessio è un po' patito di Repubblica, c'è da dirlo, no. Allora, repubblicano. No, assolutamente. Repubblica mi piace, il giornale che leggo mi piace molto. Però diciamo che le notizie ormai sono le stesse per tutti i giornali. Per tutti i giornali. Tranne il Mattino, che c'ha dei titoli meravigliosi. Il Mattino, sezione Campania, ci regala ogni volta delle grandi emozioni. Tant'è che una delle prossime notizie che vi leggerò, probabilmente la notizia più bella della settimana, la leggerò dal Mattino. Che salutiamo tutta la direzione. Allora, parto io. Questa è una notizia molto carina. Che succede? Sempre Napoli. Altro caso di finta malattia, finta invalidità e finta quindi pensione di malattia. Questa lo dico per i ragazzi della chat, non c'è male. A Napoli hanno arrestato un finto cieco. Sì. La cosa bella è che l'hanno ripreso mentre lui leggeva il giornale, accompagnava il figlio in giro, prendeva l'autobus e si indirizzava nel traffico di Napoli. E lui, quando l'hanno arrestato, hanno fatto: miracolo, ci vedo! Ci ha provato, ma non ce l'ha fatta. Lui si era finto cieco e tra l'altro aveva la cecità al 100%, con tra l'altro anche l'accompagnamento. E tu pensa che questo qua non andava manco al lavoro, perché aveva anche un altro sotterfugio per non andare, si faceva timbrare. Un genio assoluto. Che tu immagini, oh, questo è cieco, e te lo trovi che legge il giornale così, il Mattino di Napoli. Però sai che è vero che tipo era al contrario, qui dice, no, sono cieco sul serio, al contrario. Queste storie solo a Napoli. Solo a Napoli o in qualche altro paese del genere. Sì, perché è terribile, un finto cieco 100% che cammina per strada come se non fosse nulla. Neanche a dire faccio finta, mi metto gli occhiali, però vedo. Una cosa così deprecabile, no? Sì. Dovrebbe essere completamente condannata. Sì. Il problema è che come fai a non ridere di sì, sotto? Sì, no, non puoi, perché... Cioè, sei un cretino. Sì, perché tu puoi fare finta, mettiti un paio di occhiali neri e cammini per la città come se non fosse nulla. E dai, e ti fai un giretto col finto bastone o il cane e tanto stai tranquillo, no? Dici, vabbè, sto attento. Però tu ti compri il giornale, santi Dio, il mattino, e come lo leggi se sei cieco? Come lo leggi? Ti immagini che io compro un bel libro e per far finta che la cieca lo vedi al contrario. E no, io per sentirmi un po' così compro anche il giornale. Comunque l'hanno arrestato, sono felice. Lui aveva accumulato 100.000 euro di indennità. Così. Cieco, deficiente eppure ricco, che lui dice che ha usato per curarsi la cecità durante questi anni. È chiaro. Forse, va bene. Allora, andiamo avanti, la tua notizia. Vai, la tua notizia, sempre di Napoli. Allora, parla sempre di Napoli, questa è bellissima. Allora, questa è la notizia che vi dicevo, è la più importante probabilmente della settimana, a mio avviso. Allora, ce la dice... Oh, siete pronti dalla chat? Guardate che questa... Il mattino, eh? Questa non è male, eh? Ce la regala il mattino.it. Bello, bello, il mattino.it. Titola così. Napoli. Scugnizzi si tuffano da tetto ristorante. Allarme da Borgo Marinari. Allora, il Borgo Marinaro è quello che si trova dietro Castel dell'Ovo. Sì. Quel posto tanto chic, sì, tanto sì, carino, tanto bellino, che piace molto ai fighetti. Sì, sì, molti fighetti stanno ci là. Ci vanno sì, molto. Con la camicetta. Sì, sì, sì, sì. E tutti carini, si di bianco e rosa. Un bel perché posto carino, molto, Napoli, molto, molto, sì, molto carino anche da vedere. Vabbè, uno è più bello zona di Napoli, proprio affacciato al mare, dentro allora, al mare praticamente. Cosa succede? Che... I palazzi lì e le case sono quasi tutte adibite a ristoranti. Sì. Un gruppo di scugnizzi, di ragazzini del popolo napoletano. Classico scugnizzo. Il classico scugnizzo, sporco. Che vive in mezzo alla strada la mattina e la sera. E si diverte un sacco a fare qualsiasi tipo sì, di stronzata. Commettere qualsiasi tipo di nefandezza. Che fanno? Prendono la rincorsa su questi tetti delle case. E si lanciano direttamente a mare. A mo' di proprio trampolino. Esatto. E il mattino dice: è quanto accade ogni anno con l'avvento del caldo. Ed è il pericolo che tornano a denunciare, come avviene da anni, ma a quanto pare senza effetti, i gestori dei ristoranti del Borgo Marinaro. Li vediamo venire giù dalla tettoia, dicono, passando a pochi metri da tavolo. Dai tavoli e sfiorando la banchina dove sono ormeggiate. Tu immagina, banche. Stai mangiando. C'è dovuto. Io ti passo un bambino. ma fa mock! Perché poi dicono anche qualche parolaccia. E si buttano giù. Ti immagina che bella scena. A palumbo! E ti immagina la telefonata del ristorante. Pronto, polizia? Salve, ci sono dei bambini che si lanciano nel mio locale. Prego, tutto a posto, arrivederci. Deve essere. E dicono ovviamente che quei tuffi vanno fermati prima che qualcuno si faccia male. Ma sì, vabbè, questi bambini non si fanno mai male, quello è il fatto. Sono immortali. Questi, la prima volta che si fanno male è quando mettono il casco e vanno sul motorino. Sì, loro appena... Al 100%, perdono ogni capacità, l'equilibrio. Col casco perdono perché gli tocca l'orda. Gli scugnizi perdono l'equilibrio. Tu lo sai che nell'orecchio c'è l'equilibrio, loro chiudono e cadono. Sì. Giulio ci dice che dalla Repubblica ha appena letto che il miglior pizzaiolo del mondo è un giapponese. Bene, bella figura di merda, questa cosa. Io quando sono stato in Svezia, ho mandato un messaggio ai miei amici perché le guardie svedesi fuori dal Palazzo Reale erano dei filippini. Comunque sono ovunque. Il melting pot è anche questo. I giapponesi questo. Dall'altro quegli asiatici sono ovunque. Si assomigliano tutti. Potrebbe essere che lo stesso giapponese che faceva la guardia e ci siamo fatti la adesso foto è ci migliore. Siamo fatti la foto con la guardia svedese filippina. Perché comunque è il segno che i tempi cambiano. Sì, stanno ovunque. Il segno che loro i tempi sono cambiano. Ovunque. Potrebbe essere lo stesso, dall'altro. La guardia dove ha fatto la foto. Potrebbe Ma essere anche il noi pizzaiolo. Siamo ovunque. Anche noi siamo ovunque. Sì, questo è vero, questo è vero. Siamo questo ovunque. È molto. Probabilmente vero. Molto più di loro. Allora, parto io? Prego. Siamo sempre a Napoli e qui c'è un genio. Allora, voi sappiamo che ci sono i writer, no? Quelli sì. che fanno i graffiti. Sì. Molti sono artisti, sono molto belli, tutto a posto. Che succede? Che per Napoli ci sono delle stilografie di uno dei prater più famosi al mondo, sì. Banksy. Ha fatto delle cose eccezionali. Bellissime. A Napoli ce ne sono 3 o 4. Ce n'era una, e questo verbo al passato è indicativo, a via San Benedetto Croce. Sì. Sull'ammuro, proprio quello importante, che anche il muro stesso è un'opera d'arte, perché sì. c'è alcune accortezze. Che succede? Un genio, per fare un murales che io ho visto, andate su Repubblica per favore, è veramente un cesso, voglio dire così, è veramente una cosa inguardabile, io non so disegnare ma neanche lui, e fa il writer, ha coperto un'opera d'arte che tra l'altro si stimava di $100.000. Ha coperto, lui, questa era l'opera di Banksy, era una Madonna, Santa Teresa. In estasi. Sì, in estasi, però consumistica. Perché sì, era raffigurata con Coca-Cola. Ad un menù classico di McDonald's. E lui la coperta. Ma non solo la coperta, perché Banksy era stato attento a non toccare alcune parti archeologiche di questo muro. Lui ha coperto anche gli elementi in piperno, leggo, incastrati nel muro. Un cretino. Cioè, io se ti prendo, ti ficco una bomboletta lì. Cioè, proprio rettoscopia. Nel culo. Perché lì. Perché lì che deve stare. Poi nel e culo si possono ancora dire. Nell'ano. Salutiamo Milano, che non c'è. Andiamo avanti, per favore. Vai, andiamo avanti. Sì, ah, tocca a me. Ho avuto anche, sono entrato anche io in estasi. Sì, tu entri in estasi consumistica. Ah, molto bene. Ci sono dei cantanti qui in Italia che... Sì, ci sono dei cantanti. Ci sono dei cantanti. Questo mi piace molto. Ci sono dei cantanti, no, a me lui piace molto, sinceramente. Chi è? Piace molto. Chi è? Si è detto per un periodo che portasse anche un po' sfiga. Ah, come si chiama? Marco Masini. Eccolo. Sentiamo probabilmente... Sì. Un pezzo bellissimo. Sì. Ah. Lo so. Tempo lo sa. Ma questa è una, questa è una cosa profonda. Molto importante. Che siamo nascosti qua. Sì, è incredibile, ragazzi. Cioè, questa è la versione italiana della canzone di Metallica, Nothing Else Matters. E questa lui, la versione è lui, sua. Chi se ne frega. Va bene, dai. Che perla. Citiamo solo qualche passaggio, tipo l'iguana dei passi tuoi, che è abbastanza indicativo. Bella traduzione, comunque, complimenti. Il tuo inguine di vita orchidea. Dove annegano gli occhi miei. Attenzione, leggiamo in diretta. E il tempo si ambigua. Ah, il tempo si ambigua. Tempo... Chiudiamo anche qui perché il tempo si ambigua, è bellissimo. Alfredo dice: mamma, quando a Masini gli viene un ictus è troppo tardi. È già troppo tardi, ricordiamolo anche... per perle come vaffanculo. Sì. Bella stronza. Sì. Coi vestiti da puttana, ricordiamo, sì, perché lui allora, era così. Io dico, Marco Masini, no, tu già sei bello in guaiatiello. Neanche sì. Una vittoria di Sanremo, un secondo posto a Sanremo, non ricordo qualche anno l'uomo fa. L'uomo volante lui fece. L'anno fa ti ha salvato la carriera, sì. Ormai l'uomo sei... L'uomo volante. Per favore, alla regia gli piace. Alla regia piace molto questa canzone. Alla regia gli piace, noi siamo anche noi un po'... E nulla ha potuto salvare la tua carriera, Marco. Sì, nulla. Adesso fai una dichiarazione sul Corriere. Quando lui passa i gatti neri si grattano. Che porta sfortuna. Muoiono da soli, si lanciano sotto le auto. Non passare, appena attraversato Marco Masini, così funziona. Fantastico. Vai, bene. Comunque che è successo a Marco Masini? Ha detto una cosa abbastanza stupida considerando già la sua regia, il suo curriculum, diciamo, di nefandezze. Sì. Ha detto: la mia testa piena di capelli artificiali. Bello, bellissimo. Che okay. Okay. Ma sì, ci può stare. Il problema è che poi ha adotto delle spiegazioni veramente poco plausibili. Sì, leggi le collette, sono bellissime. Ha detto, le sue dichiarazioni sono state: mettete insieme l'ereditarietà, quindi il fatto che probabilmente in famiglia già avevano soppelati. Problemi di caduta di soppelati. Soppelati. E il servizio militare, ed ecco un giovane Marco Masini con un numero di capelli pericolosamente in calo, che c'entra la naia, che ai miei tempi era ancora obbligatoria. Beh, ero nella VAM, la vigilanza aeronautica, sì. Facevo un sacco di guardie ad aeroporti e altri punti sensibili, per cui portavo quasi tutti i giorni e per molte ore l'elmetto. E penso proprio che, oltre alla predisposizione, sì, familiare, il copricapo rigido di metallo ci abbia messo il suo. Ma va a cacare, Marco, ma che cazzata è? Vaffanculo. E ci stava. E dai, io rispondo con le sue parole. Si è fatto fare l'innesto perché era calvo. Perché hai fatto l'innesto? Perché ero calvo. Finisce lì. È una buona risposta. Che ci l'elmetto. Basta, dai. Cioè, ma sei proprio un cretino. Salutiamolo che ci ascolta pure lui. Tocchiamoci. Una volta l'anno torno a farmi riempire i vuoti. Bravo, così bravo. Si fa. È un po' come... Io quando nomino Marco Masini tocco ferro e mi tocco anche qua sotto. Mi viene quasi l'orchite al momento di toccarmi, però non fa niente, non si sa mai. Marco Masini. Vaffanculo. Parto io. Questo è bello, questo è bello. Questa è bellissima. Lo sai che io ce l'ho un po' con gli indirizzi inutili in università, no? Lo sai che i papaveri sono alti in alti in alti e io sono piccolino. Che succede? Sai che io ce l'ho con gli indirizzi inutili. Sì. Mi ha salvato il mattino con una notizia di un provvedimento del governo che ha eliminato alcuni indirizzi inutili, ma veramente inutili, che esistevano in Italia. Te ne leggo alcune. Gattologia. benessere del cane e del gatto, gattologia. Vabbè, però dai, questa si può fare, dai. Io accetto che qualcuno si iscriva. A gattologia. Magari per consulenze. A gatti. Non c'è, no, sento rumore di unghie di gatto sullo specchio. No, per consulenze ai veterinari. No, ma che cosa? Chiamiamo, attenzione, sono un esperto. Ci può stare. Lui, sono un dottore esperto. Ci può stare, tutti gli animali vanno tutelati. Allora, scienze del fiore e del verde. E questa magari già è un po' più difficile da difendere. Però magari ti piacciono le piante, è giusto che tu sì, possa. Sì, è la laurea, sono un dottore. Ma quanti esami può avere una laurea di gattologia? No. L'erba gatta, 1 e 2. Che ne so, la lingua ispida dei gatti, 1 e 2, perché poi serve per fare un po' di più, no? Quando il gatto dice miau, traduzione, 1 e 2. Linguistica gattese. Linguistica gattese, bravo. Storia dei gatti, forse. Vabbè, qua dai, un po' di dai, più. Dai, dai. Poi c'è, aspetta, non ho finito. Turismo alpino, solo alpino. questa è carina, effettivamente. Autoturismo no. È carino. Turismo solo questa alpino. È carino. Turismo alpino, cultura della Sardegna. Qua è bellissimo. Beni enogastronomici. Vabbè, questa però dai. Cioè, è come se allora tu fai un esame sulla mozzarella di bufala. Vabbè, ma questo è un problema più vasto, nel senso che c'è stato un periodo della nostra nazione, della storia, della cultura italiana, in cui il cibo è stato introdotto come cultura, come rivalutazione culturale. Sì, però la laurea. Ma lei è la laurea. Vabbè. Sono laurea. Fermi tutti. Questa mozzarella di bufala arriva a lui, ma fermi penso, tutti, ma sono laureato. Che poi si debba essere abbastanza intelligenti per mettere dei limiti da soli a quello che si cioè, studia. Tu immagina, io e te stiamo a pranzo, arriva mozzarella di bufala, viene questo qua, fermi tutti, sono un esperto e controlla. Alessandro ovviamente dice, è stato soppresso anche il mio corso. Che cosa facciamo? Qual è il tuo corso? Diccelo. Alessandro? Io intanto continuo, c'è anche enogastronomia mediterranea, questa è una sì, specialistica perché è solo mediterranea. Sì. E anche teorie e prassi della traduzione, che non so che cosa voglia dire. Niente, sono stati eliminati. Comunque la più bella secondo me è gattologia, scienza del fiore e del verde. E anche quella degli alpini. Anche il turismo alpino. Il turismo alpino, alpino è bellissimo. Intanto io vorrei che Alessandro ci dica. Hanno tolto arredamento interno architettonico e design. Sì, perché voglio specificare, alcuni indirizzi sono stati eliminati perché non raggiungevano il numero. E quindi questa è una mossa economica, diciamo così. Io ho parlato tanto della parte più divertente, l'abolizione degli indirizzi inutili. Tipo, secondo me forse un tempo c'era pure puffologia, studio dei puffi. Sì, giustamente magari. Giulio dice che il turismo alpino magari sta a Bolzano e magari lì ha un po' di senso. È turismo, la scienza del turismo rientra. Cioè, questo è creare degli indirizzi inutili. Fa scienza del turismo, un esame a scelta sarà le Alpi, cioè le Alpi, le studi, e il problema è risolto. Vabbè. Ma sai, però gattologia io forse una seconda laurea. Questo è un campo un po' difficile. Ti dico che io forse gattologia come seconda laurea me la prendo. Avvocato esperto in gatto, pure carina. Andiamo avanti, salutiamo tutti i gattologi, come si dice? Senti, c'è Alfredo, Bolzano non ha senso, è nord, non ha senso. Salutiamo tutti i gattologi, dottori, tra l'altro, sì. Perché secondo me qualcuno si sarà laureato, secondo te. Secondo me almeno uno ci sarà. Uno. Se sarà, esisteva, c'è un gattologo in giro uno per l'Italia. Ci sarà. Noi invitiamo il gattologo. Invitiamo il gattologo, io c'ho un gatto, quindi notizia tua che te la passo. Due, quindi. A proposito di gatte. Sì. Qua parla di una bella gatta... Una sì, gatta un Brigitta così. Bulgari. Brigitta Chi non Bulgari. Conosce Brigitta Nota Bulgari? Nota porno star. All'anagrafe Brigitta Coxis. Coc vuol dire pure qualcosa di... Sì, ma questa non so da dove viene. Non lo so, comunque. Comunque, è finita in manette. Una nota porno star in manette e non per lavoro, tra l'altro. La nostra cioè, non è finita in manette per quel lavoro. Per quelle scene in tipo... manette attaccate ai letti di Lindblom. Che arriva il poliziotto e fa adesso esatto. La perquisiamo. No, è finita in manette perché ha fatto, diciamo, una sorta di show. Sì, latte. In una discoteca. Latte di Brigitta Bulgari. In una discoteca dove c'erano anche alcuni minorenni. E probabilmente gli è stato permesso di fare qualche palpatina. Cioè lei si masturbava, perché ho letto, si masturbava davanti a questi... Ti sei informato sì, bene, sì. Davanti a questi giovani adulti, perché sì. Sono dove puberti, sì. Con gli ormoni a mille, sì. Una mano in tasca e una toccavano le zinne. Sì, erano felicissimi, contenti. Hanno arrestato questa buon samaritana che iniziava al sesso. Magari a me a 12 anni, a 13 anni qualcuno mi avesse fatto delle cose. E noi per una coscia di una velina qua, proprio le notti intere. A questi gli va tutto bene. Cioè il pene a forma di joystick del Commodore avevamo. Dovevamo comprare le videocassette. Quello sagomato. All'epoca forse giravano i primi DVD però. Forse. Comunque, la notizia bella che vorrei che tu leggessi, che hanno interrogato i bambini. Sì. Tu immagina interrogare un bambino, tu fai il poliziotto, chiedimi cosa ha visto. Vai, chiedi. Ah, hanno arrestato Restivo, quello del caso Clap. Sì. L'hanno arrestato, sì. Cioè, che cosa mi chiede? Fai l'appuntato, cioè l'appuntato Castro Giovanni, vai. Sì, Castro Giovanni, sai, no, che è il giocatore di rugby, appuntato che si fa cagare sotto d'un po' tutto. Lo so, però guarda il bambino, vai. Che cosa avete fatto in quella discoteca? Dovete guardare i gesti per capire a che cosa si sta riferendo. Posso andare in bagno? Questo è successo per tutti i 12 bambini. E che schifo. Sì, tutti quanti così. E tu chiedi, lui si ricorda? Sì. E impazzisce, perché quello è un femminone esagerato. Salutiamo Brigitta Bucher, anche ciao Brigitta, sei invitata qui con noi. Allora, passiamo a un argomento molto scabroso. Che succede? Udine, sappiamo già che in quelle zone del nord ce l'hanno un po', sono un po' troppo razzisti nei confronti degli arabi. Un po' troppo, un però, po' troppo, un po' troppo. Troppo, sono razzisti e sbagliano. Che succede? Un dordolo, un assessore di Udine, ha notato una donna vestita col niqab, che è quel velo che lascia soltanto gli occhi scoperti, sì, che guidava in macchina con la moglie e il bambino. Lui l'ha fotografata, ha chiamato i carabinieri e l'ha fatta arrestare. Ma che dicendo, cazzone, dai, non si può fare, non si può fare. Ma tu sei un cretino. Sai lui che ha detto? Ha detto, no, perché abiti del genere generano timori e sospetti. Senti, ma tu sei proprio un coglione, perché se io vedo Calderoli mi viene anche a me timore e sospetto che c'è qualcosa che non va, perché lui sta lì, se vedo Calderoli al Parlamento mi preoccupo, capito? Se vedo... Genera sospetto. Cioè, certo. Anche la Trota, il figlio di Bossi, no? 3 volte bocciato. Genera sospetto. Genera sospetto lui lì. Che ci fa lì? Genera un po' di sospetto. Tu invece una poveretta che deve vestirsi così per forza, perché sta col marito, deve uscire, la obbliga, cioè si obbliga da sola, sceglie di... Ma questi spruzzavano il deodorante agli immigrati. Sì, sono dei cretini, una banda di cretini, da. Salutiamoli tutti, mandiamo pure a cagare tutti in coro. Andiamo tutti quanti a fare il culo. Sì, andiamo a fare il culo. Io domani vengo su al nord con il niqab, sì, e mi diverto a far impazzire tutti. Ma a te, se sei napoletano, ti fotografano comunque. Ogni tanto faccio... Come fanno gli arabi? Si preoccupano, tipo, e mi impazziscono. Come fanno gli arabi? E vedi che si impazziscono tutti. A me la Udine comincia. Tutti si destabilizzano, sì, appena vedono un niqab. Tipo, si immobilizzano così. C'è un niqab. Blocco musicale. Blocco musicale. Allora, ascoltiamo i Nova Roots, gruppo segnalatoci dal nostro caro amico Alfredo Capuano della New Media Ufficio Stampa. Oltre che giornalista, ti do i miei collega. Complimenti per la pronuncia. Perfetto. Oh, yes. Nova. Yes. Nova Roots. Roots. No, Roots Music. Sì, vabbè, Roots Music. È meglio ancora. Va bene, e ascoltiamo 6 meno un quarto. Fammi parlare un po' del gruppo. Nasce nel 2005 e cercano di fondere nuove espressioni musicali come l'elettronica o anche chitarre un po' più elettriche, mm-hmm, con qualcosa che ha a che fare con le nostre radici, quindi tamurriata, pizzica e musica prettamente popolare. Okay. Ce le ascoltiamo. A dopo. Troppo. Thank you. Donna che sei lo pezzo della Francia, donna che sei lo pezzo della Francia, donna che sei lo pezzo della Francia, dimmi l'amore come se comincia. Oh, mi sono perso! Persi! Conoscono le risposte. Le risposte! Lost. L'ultima stagione in HD. Lost. Ecco questa canzone dei Coldplay di Lost. Però. Che si chiama Lost. Molto carina, E come sapete ben capito, perché noi siamo della gente che fa intuire le cose. Lost è finito, io basta. Lost è finito, santi Dio, ringraziamo. È finito. La pretesa ha detto. Ah, la mano non è finito. È finito. Allora parliamo di Lost. Lost è una serie televisiva statunitense creata da J.J. Abrams. Guarda, io ce l'ho un po' con J.J. Abrams. Sì, perché No, ce l'ho un po' per altri motivi, poi dopo... Completamente pazzo. Sì. Che parla di questa trasmessa nel 2004, quindi sì. Ben 6 stagioni, 6 anni, bello lungo. Sempre niente in confronto a Beautiful, no, però... Ambientata principalmente su un'isola tropicale, sì, del Pacifico del Sud. Tropicante. Sì. In cui si ritrovano dei sopravvissuti a un volo, l'Oceanic, sì, qualcosa. Sì. Questo è. Allora, tu già io, se sì, sto in quell'aereo e sì, vedo i personaggi che ci sono nell'aereo, mi preoccupo che possa cadere l'aereo. Per me è stato il chiattone a farlo cadere. Pure, ho dato una chicca sul chiattone. Che succede? L'aereo cade. Questi cadono tutti e miracolosamente sono tutti vivi. Sì. Sono vivi. Sì. E succede di tutto. Allora, io leggo alcune caratteristiche di Lost. Allora, nel mezzo di questa vita, di questa bella vita su 6 anni su quest'isola, succede. Abbiamo un mostro di fumo messo lì dagli sceneggiatori che ammazza le persone. Il sì, fumo uccide, è vero, anche sulle sigarette, ma non fino a questo punto. Abbiamo altre persone che si facevano i cazzi loro, però che vengono rotti il cazzo dai dispersi, mi ricordo sì, sta scena. Abbiamo un orso polare, motivo per cui io non ho visto più Lost, perché la prima puntata sì, vabbè, c'è un orso è, polare. La prima sarà l'orso polare della Coca-Cola, sì, sta l'orso lì. L'orso polare è strano. Sta lì, un sottomarino, un campo di forza, gente ammazzata che risorge, gente che vola al 15° piano e non muore, gente che questo anche Crank però, già ragione. Anche in Crank si vola da un 20° piano, anzi da un elicottero, da un elicottero. Piano. Poi abbiamo gente che guarisce dal cancro senza chemio, gente che muore se incinta. Sì. E poi abbiamo pure gente assurda. Uno che era handicappato e poi cammina. Se mi dai la lista. Allora, dove sono tutti quanti? No, i personaggi non ancora scritti. Sono 72 sopravvissuti, 71 più un cane. No, le vicende che hai detto. Questo è qua, c'è un mostro di fumo. Allora, il fatto del mostro di fumo. Vabbè, il fumo uccide come. No, ma non il fumo delle sigarette. Il fumo quando stai in un posto pieno di fumo. E tutti quanti dicono camminate a terra che c'è il fumo, che non si respira, muore. Quindi si muore, vabbè. Sì, mostro di fumo d'ammazza. Sai la frase che non puoi mai dire su Lost? No. Una volta che vedi, è plausibile, non sì, puoi mai dirla, no, mai. È fantascia, però io penso. Attenzione, no, una cosa un attimo. Sì. Non diciamo il finale, anche se io volevo dirlo, non diciamolo perché uno non l'ha visto e noi siamo attenti ai nostri. Ok. Vai. No, però volevo dire, io non condivido tanto questa storia della plausibilità. Sì, è vero. Perché comunque, come diceva un mio carissimo professore, tra l'altro dell'università di letteratura italiana, questo discorso non si può fare, altrimenti che quando ti metti a vedere un film di Superman, che quando Superman spicca il volo, che fai? Sì, vabbè. Sì, ho capito. No. Però accetti il compromesso della finzione. Hanno unito tante cose assurde. Tutti un tizio che deve premere. Senti, un J.J. Abrams ha fatto una cosa assurda. Che cosa? Allora, tu lo sai che lui ha scritto e diretto anche l'ultimo film di Star Trek. Sì, sì. Ok. Allora, io di Star Trek sono stato un fan per un periodo, ma veramente un fan. Che è sta storia che Spock e Uhura si rimettono a... Cioè, ma questa non è una cosa che non posso capire che... È un vulcaniano con le orecchie a punta. Con le orecchie a punta. Tipo che si tiene, che si tiene quella lì di colore della sì, serie originale. La sì, sì, okay. Mi ricordo. Una donna. Ok. Ora, è plausibile. È plausibile questa cosa. Perché è multiraziale. No, non è questo il punto. Il punto è che loro nella serie originale non si sono mai tenuti. E questo film è un prequel della serie originale. Ah, e quindi dici, scusami, se sono tenuti almeno durante la serie, esatto, qualcosa deve succedere. E c'è qualcuno che ha detto, qualche azzeccato sui forum, ha detto anche, sì, vabbè, però il film si capisce che si muove su un piano dimensionale diverso dalla serie. Ed effettivamente questo è vero. Però spiegatemi, perché un vulcaniano che aveva già raggiunto la maggiore età, sì, e quindi che chiesto, non può farsi trasportare da alcuna vabbè, tu sei un cretino, no, io perché... sto parlando seriamente. Ah, di Star Trek. Scusami. Quando un vulcaniano raggiunge la maggiore età, che succede? È atarassico, non ha più nessuna emozione. Tipo lei lo toccava, no, e lui faceva Non ha alcuna emozione, per cui non si spiega com'è possibile che un vulcaniano possa amare Uhura, il futuro tenente Uhura. Non che, è possibile. Poi mi ricordo che i vulcaniani, come ci suggeriscono, forse sono un po' razzisti. Forse l'era bianca poteva funzionare. Un po' razzisti e un po' troppo italiani. Allora io continuo sull'host. Sì, prego. Tra l'altro, l'host, io chiedo la regia, c'aveva un bruttissimo suono. Quello succedevano delle cose assurde. Sì. E prima di svelarti che succedeva, c'era questo suono. No, non questo. Era questo. Non è questo. Questo è carino, però. C'era questo suono. Vuole che spostiamo l'isola. Non questo suono. La regia è impazzita. Vabbè, c'era un suono tipo. Esatto. Allora, che succede? Tra l'altro, io ho notato una piccola cosa. Due cose, devo dire. Eccolo. Questo suono è bellissimo. Sì. Allora, innanzitutto voglio chiedere una cosa e attenzione per il suono perché ci sta. Allora, c'è un personaggio enorme, 100 e passa chili. Sì, il chiattone di cui parlavamo sì, prima. Lui sta 6 anni su un'isola deserta, sì, e a fine stagione è ancora chiatto come una balena. Sì. E non mi dite che è un problema di tiroide, perché questa è una stronzata. Esatto. Aveva nascosto... Come si chiamava il chiattone? Non mi ricordo. Si chiamava il chiattone, chiediamo signore? Ugo, credo. Sì. Cioè, lui, secondo me aveva gli sneakers nascosti Hugo da qualche parte. Sì. Prego, qua ci stava bene. Cioè, c'è qualcosa che non va. E poi io qua voglio una raffica, perché devo elencare una cosa. Tutti i 72 sopravvissuti, sì, uno il cane, forse anche il cane, avevano problemi col padre. Prego. Io elenco. Allora, Locke, che è il tipo il protagonista, ha rapporti difficili col padre. Jack è in conflitto col proprio genitore. Poi abbiamo il padre di Sam, ha un impatto molto negativo nella sua vita matrimoniale. Jim nasconde a Sam che suo padre è ancora vivo. Shannon e Bon hanno perso il loro padre. Michael a sua volta cerca di diventare un vero padre per Walt. Kate ha ucciso il padre. Sawyer da bambino ha visto il padre uccidere la madre. Claire credeva di essere orfana dal padre, ma in verità quello non era vero suo padre. Poi succede. Il padre il padre di Ugo abbandona il figlio quando è bambino, per poi tornare quando vince la lotteria. Quando era già vitello, scusami. Sì. La sosia. Alex si chiede se Ben sia veramente suo padre. E Ben ha rapporti difficili a sua volta col padre. Desmond parte per la regata per convincere il padre della sua donna che è un vero uomo. Allora cioè, fatemi dire, che famiglia avete? Poi fatemi dire soltanto una cosa. Fatemi dire soltanto una cosa. Per favore, DJ, un attimo. Per favore, mi stai rendendo un'ansia questa cosa nelle orecchie. Allora, dice Alfredo, dice Bob che vi sta ascoltando, sta spostando cavoc e ci dice attenzione che è disoccato. Ho capito. E noi faremo attenzione. E si dice anche che il padre del cane, sì, era un vagabondo che è andato con una cagna e l'ha avuto. E non sapete, chi non ha visto ancora la puntata non sa che alla fine si scopre che sono tutti quanti figli dello stesso padre. Tutti dello stesso padre. Che l'ho è appena stronzo. Inventato, speriamo che non sia veramente sì, alla fine sì, plausibile. No, in ogni no, caso, no, plausibile. Ma comunque è terribile. No. E poi ho una chicca. Perché sì, la frase più assurda sì, che ho mai sentito in Lost è quando è questa. Sentitela un attimo. Vuole che spostiamo l'isola. Ah, okay. Vuole che spostiamo l'isola. Ma chi è che dice questa cosa? Il pelato. Un uomo che, non so come si chiama, un uomo che l'hanno accoltellato, ucciso, lanciato okay, in una fossa comune. Era handicappato e ragazzi, poi cammina. Della chat, chi è che dice dobbiamo spostare l'isola? Il pelato. Diteci il nome Lost, del pelato. Penso. Per favore, DJ, stiamo impazzendo. Ansia. Ansia totale. Perché? Chi lo dice dobbiamo spostare chi l'isola? Lo dice? Aiutateci. Locke, okay, il pelato. Allora, io ho in anteprima. E a chi lo dice? A chi lo dice? Locke parlando con chi dice dobbiamo spostare l'isola? Non mio lo so. Mio zio. No, no, ecco, non si Mammeta. No, no, tu ragazzi, sfori il fianco. Ragazzi, a chi lo dice? A Desmo, no. A tutti. A tutti. Allora, dimmi. Secondo me, quando Locke si è girato e ha detto dobbiamo spostare l'isola, qualcuno ha detto e meno male che andiamo a spostare Yugo. Sta stata l'under a 6 anni, nessuno muore. Problemi di tiroide. E tra l'altro io so una cosa, Berlusconi sì, lui è un grande fan di Lost, questa sì, è una chicca. E quando gli hanno chiesto scusi, ma questo ponte di Messina qual è il problema? Vabbè, compriamo lì, spostiamo l'isola. Ah, vuole che dobbiamo spostare la Sicilia, ripetiamo, questa è una cosa in diretta alla Repubblica. Prego. Prego. Prego. Non c'è, non ce l'abbiamo. Non spostiamo l'isola. Lui ha detto che dobbiamo spostare dobbiamo spostare la Sicilia. Dobbiamo spostare sì, Messina. Messina. Cioè, io ce l'ho con Lost, perché è assurdo, perché io mi immagino, c'è un bel video su internet, andate a cercare degli sceneggiatori, ho fatto benissimo. Sì, mi sì, immagino questo mucchio di sceneggiatori che lanciano tanto, no, lanciano diciamo, idee. Allora, e se ci fosse una tartaruga diciamo magica? A parte il fatto che da imputare a J.J. Abrams del fatto del, scusatemi, di Ura e Spock, io non ci posso passare smettila, sopra. Smettila, cioè, non ci posso. Ma l'amore è per sopra, tutti. No, non esiste. Essere razzista. Non esiste, ci sono delle chiare cose razziali in Star Trek, primo telefilm tra l'altro in cui gli alieni erano visti come ben accetti, sì, quindi anche un messaggio di pace. Sì. Quindi non è possibile che un vulcaniano e se la faccia una negra. No, non che sia maledetto J.J. Abrams. Sì, terribile. No, comunque parliamo seriamente. Ma sai che è nata una religione? Molta gente dice sì, però J.J. Abrams Lost, che palle. Io dico che comunque tutto quello che fa parte della cultura popolare, che è invenzione umana, è bene che sia allora, conosciuta e che sia almeno un po' indagata. Che ci vuole una testa. Poi stiamo scherzando, stiamo da ridendo. Schizofrenico che si fa di litio e anfetamine contemporaneamente. E quindi è molto difficile trovare questo insieme di pazzia e soprattutto malattia mentale. E complimenti, è raro fare una cosa del genere dove ogni volta c'è un mistero più assurdo. Sì. Io non voglio svelare il finale, ma era l'unico plausibile. Sì. Sì. Era l'unico. Lo accoltello alle spalle. L'unico. Cioè, non posso fare niente. No, se no. Non accoltellarlo alle spalle. Chiediamo al DJ per favore di smetterla, stiamo impazzendo. È l'unico. DJ, basta. È l'unico possibile. L'unico possibile, altrimenti era un. La canzone è più bella. L'unico possibile. Perché era un cumulo di stronzate, orsi polari, gente che vive, che ma muore. Ma di orso polare ce n'era uno, dai. Sì, ma che non suppongo. Ma hai visto il fatto della botola? Poi c'era Yugo, poi c'era Yugo. C'era un uomo che doveva premere un pulsante ogni 100 e passa minuti, non lo so, perché altrimenti scoppiava il mondo. Scoppiava l'isola. Ma come ti viene in mente? No, saltava il mondo, tutto quanto. E Masini, guarda, io direi, concludiamo il discorso sì, e concludiamo la puntata su Masini. Sì. Così. Aspetta che mi hanno avuto una richiesta prima. Questa okay, è l'arabo, me l'hanno chiesto. Allora, volevo aggiungere due cose. Vabbè, sì, innanzitutto salutando tutti i ragazzi della chat. Ragazzi, siamo abbassiamo in chiusura. Poco la musica, per cortesia. Siete bellissimi, siete veramente bellissimi. Siete belle, è proprio un piacere parlare con voi. Voi ci credete, noi ci crediamo, quindi insomma tutti ci credono. Ci crediamo tutti. Ci devi credere. Ci devi credere, no? Ci devi credere. Che cosa volevo dire? Volevo dire che innanzitutto mi sono dimenticato di dirlo prima. I Nova Roots suoneranno al meeting del mare. Ah, sì. A Marina di Camerota. Sì. Nei prossimi giorni, mi sa che. Nei giorni? Ragazzi, quando è? Venerdì, sabato e domenica, giusto? Sì, tre giorni. Sì, tre giorni. Sì, tre giorni, venerdì, sabato e domenica. E insomma, andateli a sentire. Sì, perché se vi è piaciuto, dal vivo sarà tutta un'altra e cosa. E poi, sempre dalla New Media Press, passiamo un'altra notizia. Cioè, il Caserta Rock Fest, sì, di cui abbiamo già parlato. Sì, una volta l'altra ne parlammo, volta, sì. Che probabilmente oggi Alfredo mi diceva che si terrà verso l'11 settembre, no? Sì. Alfredo, scrivici. Fai pubblicità, Alfredo. Fai pubblicità. Facciamo noi per te, tu lo fai per noi. no, 11, 11 e 12. In verità la gente qua sta impazzendo sull'host. Esatto. Tutti. Io vi apprezzo tantissimo. Screnate. 11 e 12 settembre saranno presenti Massive Attack, Subsonica, Baustel, Teatro degli Orrori e tantissimi altri gruppi, insomma. Ci sarà anche Ura col Vulcaniano. Noi fino all'11 settembre continueremo a mandare avvisi. Sì, sì, noi continueremo imperterri di qui. Vabbè. È il momento della fine. Salutiamo tutti. Andiamo un attimo a spostare l'isola. Parliamo di Procida, che è più facile, diciamo così. Sì. E niente, grazie per averci sentito. Grazie per aver lasciato. Vi vogliamo bene. Molto bene. Vi stimiamo, vi amiamo. Sì, vi amiamo. Con distanza, però vi amiamo. Con distanza, però vi amiamo. Platonico, diciamo così. Sì, sì. E da Riccardo Cremona. E Alessio Strazzullo. Siate curiosi, Radio 2010, mi stazzetto da stivale. Ciao ragazzi. Ciao. Dieci.